البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا ما قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا ولا سلام. Buongiorno Palestina. Eccoci di nuovo a parlare di Palestina. A Bagno a Ripoli e in Valdera, in questi giorni di settembre, si sono succeduti due eventi entrambi importanti e impegnativi. Nel corso di questa trasmissione, per motivi di spazio e tempo a disposizione, tratteremo solo di Bagno a Ripoli, mentre sull'evento della Valdera vi daremo informazioni a fine trasmissione e troverete anche notizie sul blog. Grande serata quindi sulla Palestina, quella di venerdì 10 al Barroccio, nel Giardino dei Ponti di Bagno a Ripoli. Evento organizzato dall'ANPI insieme ad Assopace Palestina, con il patrocinio del comune di Bagno a Ripoli. Si è trattato di una serata intensa, eccezionale, eccezionale in primo luogo per la qualità degli intervenuti, tra cui Monio Vadia, famoso attore, cantante, musicista e scrittore, Laila dei Giovani Palestinesi d'Italia e Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina, nonché ex vicepresidente del Parlamento Europeo. Serata in cui il tempo è volato via molto velocemente, ma ciò che ha suscitato interesse e attenzione del numeroso pubblico sono stati soprattutto i contenuti degli interventi. Su alcuni temi trattati in questa occasione abbiamo già ricevuto segnalazioni e richieste di approfondimento. Vi promettiamo quindi che ritorneremo in onda con interviste specifiche ai relatori della serata. Oggi di questi interventi vi faremo sentire le parti che abbiamo ritenuto più importanti e significative. Tutto questo subito dopo l'introduzione musicale di Duccio Bianchi, docente al Conservatorio di Pesaro, che ha allietato la serata con la sua chitarra. Del Barroccio, che oltre a costituire, come si diceva un tempo, un punto di loisir per questa estate torrida per i Bagno a Ripolesi, tutte le volte che ce n'è stato bisogno e gli abbiamo chiesto, come stasera, un aiuto, un'accoglienza, una sistemazione per qualcosa di importante e di impegnativo, sono stati al nostro fianco, attivi come sempre, molto capaci, molto competenti, e quindi stasera tutta la parte tecnologica noi dobbiamo ringraziare questi ragazzi, anche loro sono di quelli che abbassano molto l'età. Allora, quindi buona serata a tutti, grazie a tutti, in particolare ai nostri ospiti, ma a tutti voi, e la parola a Pierluigi. Buonasera a tutti anche da parte mia. Quando intanto anch'io faccio rapidi, ma molto rapidamente, i ringraziamenti dell'associazione per l'organizzazione di questa serata. Quindi ringrazio l'ANPI che ci ha proposto di fare un discorso sulla Palestina, ringrazio i ragazzi del Barroccio e ringrazio i ragazzi del Palio, delle contrade ci ospita, ringrazio anche il comune che ha voluto darci il suo patrocinio. E visto che sono a fare ringraziamenti, devo porgere anche i ringraziamenti e una buona serata da parte del Presidente del Consiglio Comunale di Firenze, che non è potuto venire ma è qui con noi nello spirito, e dell'Assessora alle Politiche Sociali, Serena Spinelli. Mi hanno pregato di dirvi buona serata e che loro sono presenti pur non essendo presenti fisicamente in Serena, che molto spesso hanno collaborato con noi quando si parla di Palestina. Bene, allora, detto questo, perché siamo qui stasera? Noi siamo qui stasera, come ha detto lui Gigi, perché dobbiamo dare voce ad un popolo che voce non ce l'ha. È uno dei compiti di Assopace Palestina. Assopace Palestina è un'associazione che cerca di difendere, di lottare, di sostenere i diritti umani dei popoli che sono senza voce. E quello palestinese è uno di quelli. Chi è stato in Palestina come noi ha parlato con tante persone, tutti hanno detto: raccontate quello che avete visto, dite come noi viviamo, smentite la narrazione corrente che i palestinesi sono un popolo di terroristi che vogliono mandar via, vogliono distruggere lo Stato di Israele. Noi siamo qui per questo, quindi la nostra testimonianza è per dare voce a queste persone che da oltre 100 anni subiscono pulizia etnica nel loro territorio, da più di 50 sono sotto occupazione, eppure continuano a vivere con coraggio e con grande fermezza e gioia la loro vita, che spesso ci meraviglia, ma come fanno ancora? Come fa questo popolo a vivere ancora in queste condizioni di oppressione continua, quotidiana, con incursioni notturne, con furto di terra, furto di acqua, eppure continuano a lottare in modo non violento con i giovani, con gioia, è una gioia che deriva dalla sicurezza di essere dalla parte della ragione. E quindi diciamo noi, finché questo popolo continua a lottare, spesso ci facciamo prendere dallo scoraggiamento, ma stasera è una di quelle occasioni che ci consentono di dare voce proprio a questo popolo oppresso. E siamo in buona compagnia, perché tutti i funzionari, i relatori, gli ispettori speciali delle Nazioni Unite hanno riconosciuto che lo Stato di Israele, il governo israeliano, sta commettendo crimini contro l'umanità. Non solo, la Corte Penale Internazionale avvia delle indagini che però certamente si infrangono contro lo scudo di impunità che Israele si è creata intorno. E noi pensiamo che cosa sarebbe successo se quello che fa lo Stato israeliano fosse stato fatto da altri paesi. Che cosa sta succedendo lo vediamo. Quindi ecco che noi cerchiamo stasera, come tante altre volte e come è nello spirito dell'associazione, di dare voce a queste persone. Facciamo delle campagne di sostegno per il popolo palestinese, ma non solo. Infatti lì su quel banchino vedete c'è del materiale che serve per sostenere una delle campagne che noi cerchiamo di portare avanti per i giovani di Attuani. Ce ne sono tante altre, però questa è una di quelle che noi cerchiamo di sostenere con queste nostre iniziative. Quindi grazie a tutti e buona serata e buon ascolto. iniziamo subito con un brano di Duccio, e lui è il nostro compagno antifascista, internazionalista, ma dovrei invece presentarlo come un docente del Conservatorio di Pesaro, no, è perché insomma altrimenti... E poi dopo, io poi vado a sedere, invece ci sarà la proiezione all'inizio, il saluto che ci viene in maniera davvero prestigiosa da Moni Ovadia, che vedremo nel video. Grazie. Una manifestazione per i diritti del popolo palestinese, convocata dall'AMPI insieme ad Asso Pace Palestina, è un grande valore, a mio parere. Perché? L'AMPI è un'associazione che combatte il fascismo, nasce dalla resistenza italiana antifascista e prosegue nel suo magistero, perché il fascismo non se n'è andato con il 25 aprile. Ha continuato a cercare di seminare i suoi semi neri, di tenere mani e piedi nei gangli vitali dello Stato, come i servizi segreti e certi apparati deviati delle nostre forze dell'ordine, che naturalmente rispettano il dettato costituzionale, ma quando esistono le deviazioni provocate dai fascisti, naturalmente solo in una parte delle forze dell'ordine, allora noi vediamo devastanti. Questa è, a mio parere, l'origine profonda delle stragi di Stato e della stagione stragista. Ora, l'AMPI, derivando dalla lotta del popolo italiano per ribellarsi alla tirannia fascista, che oramai si era ridotta poi a un fantoccio dei nazisti, e questa espressione di fantoccio non la dice Moni Ovadia ancora una volta, ma la scrive Benito Mussolini alla sua amante Claretta Petacci. Perché così era. Aveva bisogno Hitler di uno stato fantoccio nella parte dell'Italia che era ancora in mano al fascismo, cioè la parte del centro-nord. I partigiani italiani divennero forza combattente, 100.000 italiani presero direttamente parte alla resistenza antifascista, restituirono onore e dignità al nostro paese, onore e dignità che erano stati sfregiati e gettati nel fango dall'avventurismo militarista, dal razzismo fascista, e con questo mostrarono che un popolo può e deve prendere le armi quando è oppresso da una orribile tirannia. Ora, quando le bandiere palestinesi, i nostri palestinesi che vivono in Italia, partecipano alle manifestazioni dell'AMPI, noi sentiamo proteste dalla parte più retriva delle comunità ebraiche. Perché? L'AMPI rappresenta simbolicamente tutti i popoli oppressi che combattono per la loro liberazione e che combattono per il loro diritto all'autodeterminazione. Cosa c'è che non va nella presenza dei palestinesi nell'AMPI? Dovrebbero essere i palestinesi oggi, insieme ai curdi, quelli che aprono il corteo del 25 aprile. Perché se il 25 aprile diventa una sterile celebrazione autoreferenziale, non serve a niente, anzi, fa danni. Combattenti ebrei che vivevano nella Palestina mandataria furono aggregati all'esercito inglese nella brigata ebraica e combatterono per la liberazione del nostro paese. Quindi le insegne della brigata ebraica hanno pieno titolo a partecipare alle manifestazioni, ma le insegne della brigata ebraica, non la bandiera di Israele, stato di oggi. Perché quella bandiera per il popolo palestinese, purtroppo, è simbolo di oppressione, di ingiustizia, di segregazione, di occupazione, di colonizzazione. A me sarebbe molto piaciuto vedere le insegne della brigata ebraica che partecipò alla resistenza combattendo con le truppe del generale Alexander. Mi piacerebbe vederla nelle manifestazioni a sostegno dei palestinesi. Come ho visto in una piazza di Londra, ebrei ultraortodossi, con tanto di barbe e i boccoli rituali ebraici, sostenere i diritti della Palestina, il diritto all'autodeterminazione e alla libertà del popolo palestinese. Ebrei ortodossi sostenevano a Londra, ho il filmato, i diritti del popolo palestinese e denunciavano il governo di Israele per compiere crimini sul piano umanitario e per essere blasfemo dal punto di vista ebraico. Allora gli ebrei non sono un blocco monolitico. Gli ebrei hanno le loro teste. Ci sono i fanatici zeloti che sostengono ogni politica dello Stato di Israele a prescindere. Non è una novità. Gli ebrei sono uomini come gli altri. Quando si diventa nazionalisti fanatici, ci si comporta come tutti i nazionalisti fanatici. Si diventa violenti, si inventano i nemici e se ne vuole vedere il sangue. Perché questo produce il nazionalismo. Il nazionalismo ha dato al mondo due guerre mondiali e il nazionalismo ebraico non fa eccezioni. La sua è una logica di forza, di prepotenza, di violenza, di sopraffazione. Come tutti i nazionalismi. Essendo io ebreo dico questa cosa perché non sono antisemita. Gli ebrei sono come gli altri. Quando si comportano in maniera ignobile, sono come tutti gli altri che si comportano in maniera ignobile. E io lo dico apertamente a chiare lettere. Allora, ecco che Assopace Palestina, che tradizionalmente sostiene i diritti del popolo palestinese, il diritto alla sua libertà, all'autodeterminazione e tutti i diritti connessi, si è unito con l'ANPI per creare una forza che io spero solleciti anche le istituzioni del nostro paese a smettere di essere appiattite sulle politiche dei governi ultrareazionari di Israele e a rendere giustizia al popolo palestinese. Siamo una democrazia costituzionale? La nostra Costituzione viene dalla resistenza antifascista. Allora comportiamoci degnamente nei confronti della nostra Costituzione. Ogni organo del nostro Stato deve essere all'altezza, anche quando affronta la questione israelo-palestinese. Grazie per avermi ascoltato. Olu yu wolo fa uto ukaso ha. Do wa oluma clandestine un oluma hatungana dei de me barate olula hu fasola wa kone konye ma hu aute wili yala yeah olube sankele fila sabana ninduru woro wolon fila shegi konontan Olube sankele fila sabana ninduru woro wolon fila shegi konontan. Qui fra noi il Alberto Negri, che è estremamente bravo, è uno che le cose che scrive le conosce, non è che dice cose che si inventa o legge al computer. Purtroppo ha avuto problemi familiari e quindi non è potuto essere con noi nemmeno attraverso il collegamento Skype. Con le testimonianze di Luisa Morgantini e Leila, dei giovani palestinesi in Italia, cioè, e poi Alessandro, che è un attivista che vive in Israele e quindi ci può dare una testimonianza dall'interno. Io passerei la parola a Leila, che... Okay. Grazie mille intanto, buonasera a tutti e a tutti, e grazie tantissimo per questo invito, sono molto onorata, molto felice, e anche delle belle parole spese insomma fino ad adesso, mi sento di essere molto accolta in questo bel paese toscano, e vi avverto di essere anche iscritta all'AMPI nella sezione del mio municipio a Milano. E, io sono una ragazza di 25 anni, metà palestinese. Mio padre è arrivato in Italia a metà degli anni 80. La storia di mio padre racconta un po' la storia del dramma palestinese. Ghassan Kanafani, che immagino che la maggior parte di voi conosciate, è stato un grandissimo poeta e scrittore della diaspora palestinese, e in una delle sue citazioni più famose, che piacciono più a me, dice che il popolo palestinese ha subito un'ingiustizia, riprendendo l'ingiustizia che il popolo ebraico ha vissuto sulla propria pelle. Ecco, il dramma della popolazione palestinese è un dramma che è molto lontano e ha radici molto storiche, molto, molto lontane. La storia di mio padre è la storia di milioni di palestinesi, della maggioranza dei palestinesi che vivono in Europa, nella diaspora, ed è la storia di un ragazzo le cui origini arrivano da Haifa, che è una città sul mare oggi all'interno dello Stato di Israele, una città meravigliosa per chi di voi l'ha vista con i propri occhi, la sposa del Mediterraneo, una città molto antica, storicamente un porto commerciale. Nel 1948 mio nonno Hassan è stato deportato dalla città di Haifa insieme alla sua famiglia e ha trovato rifugio, come milioni di palestinesi come lui, nella città di Jenin, ad oggi denominata all'interno dei territori occupati palestinesi. Con l'arrivo del 1967, con la guerra dei sei giorni, la famiglia di mio padre scappa in Giordania, dove diventano profughi. E dove fa le scuole, sopravvive e cresce fino all'inizio della sua attività politica, che lo porta ad arrivare nel 1982 in Libano come combattente rivoluzionario. Questa non è la storia di un palestinese, è la storia della maggioranza dei palestinesi che vivono oggi nella diaspora. Che cos'è per noi la diaspora? È qualcosa di indefinito, è la ricerca costante di un'identità, di sentirsi propriamente a casa propria, sia qua nell'esodo, nell'esilio, sia a casa propria in Palestina. La nostra identità, questa identità diasporica in esilio, è l'identità di soggettività che non possono raccontare chi sono. Io quando dico, anche ai miei coetanei, di essere di origine palestinese, spesso ho quasi il timore di non sapere quale reazione ho dall'altra parte e di non essere soprattutto compresa. Cioè, la comprensione di che cosa vuol dire essere palestinese e poter dire di essere palestinese. Io sono tornata molte volte in Palestina, nonostante le grandi difficoltà che incontro ogni volta, come potete immaginare, a causa dell'occupazione, e la privazione più grande che subisce questo popolo, il nostro popolo, è il fatto di non poter esplicitamente raccontare a un confine, dire a un confine di essere palestinese, di avere dei documenti che riconoscano la tua identità etnica. Cioè il fatto che il documento, per gli italiani, io sono italiana, per noi italiani che ci definiamo anche attraverso i nostri documenti, è molto facile. Per un palestinese questa opportunità non esiste, per un palestinese che è stato costretto all'esilio nei campi profughi in Libano, in Siria, in Giordania e in tutti i paesi, anche in Europa, negli Stati Uniti, sono milioni di palestinesi della diaspora. E questa sofferenza crea un disturbo, che è il disturbo dell'identità. Chi siamo noi? Chi sono i palestinesi in questo paese? Esistono dei palestinesi in Italia? Sì, ci sono migliaia. C'è uno studio del 2006-2007, che è l'ultimo sondaggio che è stato condotto da una ONG palestinese che si chiama Badil, che dice che i palestinesi in Italia sono più o meno 4.500-5.000. Dopodiché non esistono dei registri che confermino tali numeri. Il fatto che ad esempio io abbia nazionalità italiana e che non abbia la cittadinanza palestinese perché mio padre ha perso il suo passaporto palestinese a causa dell'occupazione, io non rientro nei registri come tantissime centinaia di miei coetanei con cui mi organizzo all'interno di questo gruppo che si chiama Giovani Palestinesi d'Italia. Non siamo all'interno della conta dei palestinesi. Ecco perché iniziative di questo tipo sono importanti per raccontarci che esistiamo. E soprattutto il fatto che, sembrerà banale, ma il fatto che io, nonostante non sia, che abbia un'esperienza molto limitata e sia molto giovane di età, il fatto che da un palco mi venga passato il microfono anche prima di Luisa, che ha avuto un'esperienza in Palestina ed è stata, io, anche mio padre lo dice, che Luisa è più palestinese dei palestinesi, per me conta molto perché vuol dire passare il microfono, no? Vuol dire dare voce alle persone che sono titolate a parlare, a chi vive sulla propria pelle e attraverso il proprio sangue il dramma dell'occupazione. E mi rifaccio a quello che veniva detto prima sui giornalisti e sulla rappresentazione dei media. In Italia esistono palestinesi che sono titolati a parlare e durante i bombardamenti di maggio e l'escalation di violenza che c'è stato questa primavera, ma ricordiamo che è arrivata sotto i nostri riflettori, ma in realtà la situazione in Palestina è costantemente di questo tipo. Sui media mainstream italiani occidentali ritorna, diciamo, all'attenzione solo quando avvengono dei bombardamenti, ma la realtà palestinese è una realtà che è quotidianamente fatta di violenza, di demolizioni di case, di espropri di terreni, di imprigionamenti. Immagino che voi lo sappiate, ma in Israele esiste la detenzione amministrativa, che è una modalità di arresto senza processo e senza carico. E da pochi giorni, tra l'altro, una buonissima notizia: è stata liberata sotto cauzione con arresti domiciliari Anhar, che è una ragazza molto giovane che soffre anche di un disturbo bipolare, che è stata incarcerata con la detenzione amministrativa incinta, che era arrivata ormai al nono mese, e per fortuna, grazie a pressioni internazionali, anche al lavoro che i solidali come voi fanno in Europa, si è riusciti ad ottenere la sua scarcerazione. Ecco, l'attenzione non deve mai calare su quello che succede in Palestina. L'attenzione non deve mai calare, perché nel momento in cui cala un minimo di attenzione si ritorna a seppellire la sabbia sotto il tappeto continuamente. Prima veniva citata la Corte Penale Internazionale, venivano citati gli organismi internazionali a cui io sinceramente non ripongo nessun tipo di fiducia. Cioè, le Nazioni Unite sono state la causa del nostro dramma e non possono essere la soluzione. Quando mai il carnefice diventa soluzione per un popolo oppresso? cerco di far capire che anche rispetto alla visione che si ha della donna palestinese, cioè quando io tante volte ho ricevuto dei commenti dove mi veniva detto: ah, ma com'è bravo tuo padre che non ti fa portare il velo, oppure ah, ma non preghi o non fai Ramadan. Io faccio Ramadan perché è una cosa in cui credo, anche se io non mi professo di religione musulmana, ma per me è un esercizio spirituale molto importante. Non porto il velo perché non sono praticante, però ho tantissime coetanee dentro i giovani palestinesi d'Italia, anche mie cugine, mie zie che portano il velo per scelta. Cioè, questa imposizione da parte dell'Occidente, dell'Europa e dell'Italia di definire chi è libero o meno a seconda di quello che porta addosso è una pretesa che Edward Said definirebbe orientalista, cioè raccontare e giudicare gli usi e costumi degli altri partendo sempre dal presupposto che in Europa noi donne siamo libere di poter fare cosa, di poter andare in giro magari mostrando mezza gamba in più. Non lo so se questa libertà è una domanda su cui io mi interrogo personalmente. Quindi per me è importante anche raccontarvi che le donne palestinesi sono state sempre protagoniste della lotta contro l'occupazione sin dal mandato britannico. Cioè, le prime organizzazioni donne risalgono agli inizi del Novecento ed erano organizzazioni indipendenti che lottavano per l'emancipazione della donna in Palestina. Senza dubbio c'è un grossissimo problema anche di patriarcato in Palestina: il numero dei femminicidi è molto alto, come alto il numero degli abusi domestici. Purtroppo mi viene da dire che nel nostro paese la situazione non sia molto differente e che questa visione retrograda dell'Islam come una religione cattiva, io facendo anche un'analisi con le mie coetanee palestinesi, arabe, con cui mi frequento anche a Milano, abbiamo condiviso questo pensiero per cui dal 2001 in poi, dall'11 settembre, che domani sarà tra l'altro anniversario, dall'11 settembre del 2001 in poi, la percezione di chi è arabo, di chi è in particolare musulmano in questo paese, è cambiata radicalmente. Io mi ricordo che a livello inconscio, tante volte quando le persone mi chiedevano: ma tuo padre è musulmano? Io rispondevo sì, ma non è praticante, anche se non era vero, come a cercare di giustificare rispetto al fatto che mio padre fosse musulmano ma fosse distante rispetto a delle pratiche che neanche io sapevo cosa. Cioè, l'atteggiamento che hanno subito e abbiamo subito noi di origine araba o di religione musulmana in questo paese, che purtroppo continua ancora oggi, è riassumibile in questo. Cioè, l'islamofobia c'entra tantissimo con la questione palestinese, l'arabofobia c'entra tantissimo con la questione palestinese, il fatto che quello che è definito altro rispetto all'Europa si è sempre visto con un occhio cattivo, con un occhio negativo, con un occhio comunque da qualcosa da migliorare. Il fatto, c'è un bel libro che racconta di come i palestinesi vengono raccontati all'interno dei libri di scuola israeliani, dove vengono di solito disegnati come beduini sui cammelli e raccontati come dei primitivi che giustamente dovevano essere civilizzati. Per questo anche l'Europa si identifica con Israele in quanto è un progetto europeo, è un progetto bianco, è un progetto di colonialismo, di insediamento basato su una logica razzista, sulla supremazia di un'etnia rispetto a un'altra. Gli arabi sono scuri, sono musulmani, sono retrogradi e vanno civilizzati, e allora l'uomo bianco può civilizzare gli arabi. È la retorica che il Medio Oriente vive, non solo la Palestina ma la maggioranza dei paesi arabi in quella sfortunata area del mondo. Per questo poi quando anche a me mi dicono: ma non sembri araba, io spesso gli rispondo: cosa devo sembrare, un falafel per sembrare araba? Insomma, volevo raccontarvi un po' questo, e per quanto io non sia considerata sempre abbastanza italiana in Italia e abbastanza palestinese in Palestina, quindi sto ancora cercando di definire la mia identità, per me è importante, poco prima che iniziassimo questa iniziativa è arrivata la notizia che due dei sei palestinesi che erano riusciti fortunatamente a scappare dal carcere di massima sicurezza israeliano sono stati arrestati e sono stati presi nella città di Nazareth, in quella che è la Palestina occupata, definita oggi Stato di Israele. Lo sconforto ovviamente è costante, cioè io quando c'è stata questa notizia noi ragazzi dell'associazione eravamo tutti molto contenti, vuol dire qualcosa è possibile, cioè il fatto che nel ventre della bestia due indigeni nativi palestinesi riescano a scappare da un carcere di massima sicurezza del secondo esercito più forte del mondo è un segnale forte, è un'umiliazione forte nei confronti del nemico. E lo sconforto dalla notizia dell'arresto ovviamente tanto come è abituato a subire il popolo palestinese. Le storie di tutte le nostre famiglie sono di arresti, di morti, di imprigionamenti, di vite difficili nella diaspora, senza documenti, con asili politici o alle dipendenze degli aiuti umanitari nei campi profughi, nei paesi vicino alla Palestina. Però quello che dico sempre quando mi chiedono che cosa provi tu nei confronti, che sentimento provi tu nei confronti del futuro è che le ingiustizie non durano per sempre. Io sono di questa idea e che la nostra più grande forza, soprattutto qua in Italia, è la nostra memoria. Sono iniziative come queste, sono attività politiche e culturali come portate avanti da Assopace, da tutte le persone che amano la causa della giustizia e della libertà, e la nostra arma di battaglia in questo momento è la nostra cultura, è la nostra poesia, è la nostra letteratura, è la nostra memoria, siamo noi stessi in carne ed ossa a essere un mezzo di resistenza oggi, perché raccontare ogni giorno a una persona che cosa succede in Palestina vuol dire resistere all'occupazione, come diceva anche Monio Vadia. Di sicuro abbiamo di fronte il nemico più grande del mondo, ma anche l'Algeria dopo 130-150 anni di colonialismo è riuscita a liberarsi, quindi io non so se riuscirò a vedere la liberazione della Palestina, ma me lo auguro, così posso tornare a Haifa nella casa di mio nonno che abbiamo anche visto qualche anno fa. Tutte le persone che amano la libertà e questo paese, come diceva anche Monio Vadia, ha visto che cosa vuol dire essere in assenza di libertà, devono stare dalla parte del popolo palestinese. Presto o tardi lo capiranno tutti e tutte, credo. Grazie. We identify with the PLO because just like ourselves they are fighting for the right of self-determination. I gathered my thoughts with my head in my hands. My next of kin, my list of demands. I slip from shadow to shadow. I saw things I should not see. Il 27 ottobre 2013 è stata lanciata dalla cella di Nelson Mandela a Robben Island in Sudafrica la campagna internazionale per la libertà di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri politici palestinesi. alla presenza di Fadwa Barghouti, avvocato e moglie di Marwan, di una delegazione di 12 palestinesi rappresentativi di istituzioni e associazioni per la difesa dei diritti umani, di numerosi attivisti e personalità sudafricani, e Luisa Morgantini, già vicepresidente del Parlamento europeo, si è dato vita ad un comitato internazionale composto, primo fra tutti, da Ahmed Kathrada, compagno di cella e di lotta di Mandela, i premi Nobel Desmond Tutu, Jody Williams, Adolfo Perez Esquivel, José Ramos Horta, Marie-Red McGuire, nonché Angela Davis, John Burton, Lena Helm-Wallen, Christian Essel, vedova di Stephen Essel, che prima della sua morte aveva aderito alla campagna per la libertà di Marwan, e ad un comitato di parlamentari di diversi paesi del mondo. Nella dichiarazione di Robben Island, documento da firmare per il sostegno alla campagna, si scrive: uno dei più importanti segni della disponibilità a fare la pace con il tuo avversario è la liberazione di tutti i suoi prigionieri politici. Un potente segnale di riconoscimento dei diritti di un popolo e delle sue naturali rivendicazioni della propria libertà. È il segnale d'inizio di una nuova era in cui la libertà aprirà la strada per la pace. Occupazione e pace sono incompatibili. L'occupazione in tutte le sue manifestazioni deve terminare in modo che la libertà e la dignità possano prevalere. La libertà deve prevalere perché il conflitto cessi e perché i popoli della regione possano vivere in pace e sicurezza. Israele invece continua ad usare i prigionieri come ostaggi. E nell'accordo di Oslo la leadership palestinese non è stata in grado di far diventare la questione dei prigionieri prioritaria, a differenza di Mandela, che ha sostenuto che solo gli uomini liberi possono negoziare e che da uomo libero ha negoziato. Quando è stato detto a Marwan che si iniziava la campagna per la sua liberazione, lui ha preteso che la campagna non fosse fatta solo per lui, ma per tutti i prigionieri politici palestinesi. I prigionieri palestinesi, ancora oggi nelle carceri, sono circa 5.000. Tra loro, 136, di cui 11 parlamentari, in detenzione amministrativa, che viene rinnovata ogni 6 mesi. In tutti questi anni di occupazione militare, migliaia sono stati i casi di persone che hanno trascorso anni e anni in carcere senza sostenere un processo e senza conoscere il capo di accusa. Sono 195 i minori, di cui 36 al di sotto dei 16 anni, che subiscono torture e abusi, così come le molte donne incarcerate. Sono 73 i detenuti morti sotto tortura e molti i casi di morte per malattie non curate. Le cifre cambiano continuamente, ma si intensifica la repressione, gli arresti, le incursioni nelle case. In modo particolare sono presi di mira i minorenni, i giovani e gli attivisti della resistenza popolare non violenta contro il muro e l'occupazione. He's 11 years old. He's too young to be arrested. He's 11 years old. He's too young to be arrested. Under 12. Under 12. He's too young to be arrested. Where are you taking him? He's under 12 years old. Israele viola i diritti umani e le convenzioni internazionali, nonché ogni risoluzione delle Nazioni Unite, ma rimane impunita come se fosse al di sopra di ogni legge. Dal 1967, anno dell'occupazione militare della Cisgiordania e di Gaza, sono oltre 800.000 i palestinesi passati nelle carceri israeliane. Virtualmente ogni famiglia palestinese ha avuto un suo membro detenuto in carcere. Ma non si tratta solo di numeri. Ogni prigioniero ha una storia, un volto, un vissuto di sofferenza, torture, umiliazioni. di figli che non sono stati visti crescere o che non si sono mai potuti avere. Come Marwan, che ha trascorso complessivamente più di 18 anni in carcere, i primi durante la prima intifada, i successivi dalla data del suo sequestro. Non ha visto crescere i suoi figli, Qassam, Sharaf e Arab, e sua figlia Ruba, che si è sposata ed ha avuto un bimbo che Marwan non ha mai visto e non potrà vedere, perché le regole imposte da Israele prevedono che solo i parenti stretti, mogli e figli, possono far visita, anche se i figli di Marwan non hanno il permesso di visitare il padre. Ed è solo negli ultimi 2 anni che Fadwa lo può incontrare 2 volte al mese, per 45 minuti. مروان كان في الفترة اللي بختارها للدراسة كان بيقوم بأنه يأخذ الأولاد بعيدا عن المنزل كان بأخذهم بلعبهم كذلك يعني في المنزل كان بيساعد كان بيقوم بكل شؤون الأولاد طالما هو موجود في المنزل. مروان برغوتي venne infatti sequestrato a Ramallah il 15 aprile del 2002 dall'esercito israeliano. Subito dopo l'operazione di aggressione militare scudo difensivo lanciata in tutti i territori occupati, che ha visto la distruzione delle città e di tutte le infrastrutture, ministeri, scuole, strade, l'istituzione di centinaia e centinaia di checkpoint, coprifuochi, assassini extraterritoriali, demolizioni di case. È stato condannato a operazioni di resistenza militare a 5 ergastoli e 40 anni di prigione. Marwan non ha riconosciuto la legittimità della corte che lo giudicava, come aveva fatto Mandela per il suo popolo, ed ha rivendicato il diritto dei palestinesi alla libertà, alla pace, alla democrazia. Marwan è amato dai palestinesi ed è un uomo per l'unità. Per questo la campagna per la sua liberazione è stata lanciata da tutte le forze politiche e sociali palestinesi. Dal carcere è stato lui il promotore del documento sui 21 punti per un governo di unità nazionale dopo le elezioni del 2006 e il fallimento del governo di Hamas. Nel suo messaggio inviato a Robben Island dalla cella numero 28 della prigione di Adarim in Israele, ci dice: quando vi verrà chiesto da che parte state, scegliete sempre la parte della libertà e della dignità contro l'oppressione, dei diritti umani contro la negazione dei diritti, della pace e della convivenza contro l'occupazione e l'apartheid. Solo così si può servire la causa della pace e agire per il progresso dell'umanità. Ed è ciò che intende perseguire il Comitato per la Libertà di Marwan Barghouti e dei prigionieri palestinesi, che si è costituito in Italia ed è composto da rappresentanti di molte associazioni, organizzazioni sindacali, sindaci e personalità del mondo della solidarietà, della politica, della cultura e dello spettacolo. Ognuno può portare il suo contributo e sentire ed agire con il messaggio che ci ha lasciato Mandela. La nostra libertà sarà incompleta fino a quando i palestinesi non saranno liberi. Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Anche tu puoi fare qualcosa. Aiutaci ad organizzare eventi per diffondere la conoscenza sulla condizione dei prigionieri palestinesi e sostenere il loro rilascio. Fai adottare la dichiarazione di Robben Island dai comuni, dalle regioni, dal Parlamento, dalla società civile. Chiedi alle istituzioni di conferire a Marwan Barghouti la cittadinanza onoraria. Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Io costantemente vedo Alessandro. Ottimo. E secondo me la questione di Alessandro è una cosa molto importante, perché lui è italiano e anche israeliano, però vive a Gerusalemme. Io l'ho conosciuto interposte persone, perché questi ragazzi israeliani e ragazze anche, perché sono molte le donne, cosa fanno? Si rifiutano di credere in un governo che opprime, in un governo che è coloniale, e vanno con i palestinesi. Vanno con i palestinesi a proteggerli in qualche modo, a cercare di essere un deterrente all'aggressione dei soldati, che vi garantisco ormai non è più così, nel senso che io mi ricordo a Budrus nel 2003, quando arrivavano gli israeliani, i soldati avevano qualche rispetto e qualche timore, non li picchiavano come picchiavano i palestinesi a Budrus, a Belain e in altri posti. Beh, in questi ultimi anni in realtà anche gli israeliani che vanno nei territori occupati e stanno con i giovani palestinesi a cercare di impedire che un colonia li aggredisca, a cercare di fare in modo che possano raccogliere le olive, beh, i soldati non sono più così generosi. E, ho 29 anni, sono nato a Milano e ho vissuto in Israele a più riprese e ogni volta che passavo del tempo là ho continuamente, ecco, preso coscienza del fatto che l'educazione ricevuta più che dai miei genitori, che sono sempre stati molto aperti, ecco, a darmi un'educazione il più critica possibile, nel senso di, ecco, sempre mettere in discussione ciò che il mondo ci presenta, ho frequentato una scuola ebraica dalla prima elementare alla quinta liceo. E l'educazione che ho ricevuto è un'educazione profondamente sionista. Cosa significa? Anzitutto io trovo che ecco, un punto di forse non ritorno nell'ebraismo diasporico, 2000 e più anni a questa parte, è proprio appunto l'inserimento del sionismo come, ecco, collante e condizione sine qua non per essere considerato un buon ebreo. Ho ingoiato senza porre troppe domande all'interno del mio percorso scolastico e successivamente, appunto, ogni volta che passavo del tempo sia in Israele che in Palestina aprivo un pochettino di più gli occhi. Alcuni accademici hanno definito questo processo come un processo di decolonizzazione personale, quindi appunto cercare di decostruire ecco, le informazioni da noi imparate, o meglio che ci hanno imparato, per provare, ecco, a ricostruire la realtà, ecco, cercando di capire la grande complessità che compone essa. E mi fa sempre molta impressione quando vengo presentato come israeliano. Non mi ci sento israeliano. Io ho deciso di prendere la cittadinanza perché dispongo di questo privilegio, un privilegio dato alla nascita, nonostante non abbia nessun parente vivo, quantomeno in Israele o in Palestina. Ciò nonostante, io ho il diritto dalla nascita di essere israeliano. Ho qualcosa sul quale non ho mai, ecco appunto, fino a pochi anni fa non ho mai riflettuto in maniera critica, ecco, su questo privilegio datomi non tanto dal cielo più che dagli umani, o meglio da, ecco. E, una volta capito cosa significa, ecco, il fatto che io in questo momento vivo a Gerusalemme, vivo praticamente sulla porta di Damasco, nella parte di Gerusalemme che viene considerata ebraica, cioè anzi, la parte di Gerusalemme ebraica che viene considerata Israele, e sono a pochi minuti a piedi da Sheikh Jarrah, sono a pochi minuti a piedi da Silwan. Mi fa molta impressione, ecco, il fatto che io goda di tutti i diritti che un normale cittadino disponga in quel paese. mi fa strano che io ora, appena tornerò a Gerusalemme, settimana prossima potrò fare la terza dose del vaccino, mentre il mio vicino di casa non ne ha fatta nemmeno una. Mi fanno molto strano tutta una serie di cose, quindi ecco, il mio approfittare, mettiamola così, di questo privilegio è stato più che altro una questione di visto, in quanto per l'appunto, se fino a pochi anni fa essere ebreo in terra di Israele era un passepartout per poter essere o fare qualsiasi cosa, da qualche anno, quando appunto negli ultimi 10 anni il governo Netanyahu, che ora non è più al potere, ma insomma, si è reso conto che parte sempre crescente di gioventù ebraica diasporica inizia a essere non più così tanto sionista come un tempo, ha iniziato anche appunto a impedire l'accesso a Israele a chiunque si esprima in maniera a favore apertamente del movimento di boicottaggio, per cui io pubblicamente sono assolutamente contrario al boicottaggio, semplicemente per questioni diplomatiche, spero che sia stata accolta. Okay. E quindi ecco, all'inizio anche con Leila dirle, ecco, io sono israeliano, ecco, mi ha messo molto in imbarazzo, ecco, non ho un aggettivo migliore per definire il come mi sia sentito quando gliel'ho comunicato. Però ecco, Luisa giustamente mi ha chiesto di raccontare un pochettino la collaborazione ebraica-palestinese in Palestina. Devo dire che quando viene nominato il nome di Luisa Morgantini nella zona sud di Hebron, o sud di El Halil, a tutti si illuminano gli occhi, la morga, perché così viene chiamata. Luisa, insieme a tante altre persone, hanno fatto un lavoro pluridecennale di importanza storica, mi permetto di dire. No, ma non quello che ho fatto. No, ma ci sto arrivando. E grazie ai semi piantati da Luisa, e non solo chiaramente, ti nomino giusto perché sei qua, negli ultimi 25-30 anni sempre più organizzazioni di ebrei non sionisti, israeliani non sionisti, decidono di mettere un attimino in gioco il proprio privilegio andando direttamente a mettere il proprio privilegio per eventualmente proteggere palestinese. È sempre molto importante cercare di distinguere la collaborazione dall'assistenzialismo, in quanto non è assolutamente con intenzione assistenzialista che si va là. Ciò che si cerca di creare sono relazioni durature fondate su fiducia reciproca. E quindi ad esempio nelle comunità a sud di Hebron recentemente un gruppo di circa 40 persone di ebrei, sia israeliani che da tutto il mondo, hanno vissuto là per diversi mesi, sia per documentare le violenze subite su base quotidiana da parte dei soldati. Ma negli ultimi mesi la violenza dei coloni è cresciuta in maniera assolutamente agghiacciante. La presenza ebraica, ahimè, è necessaria. Mi piacerebbe dire che non fosse così, mi piacerebbe poter dire che la zona sud di Hebron, nello specifico, è una delle zone più povere in assolute in Palestina, mettendo Gaza un secondo da parte, perché è un discorso a sé, ahimè. È un discorso a sé, ma non lo è, ma ecco. Ahimè, la presenza ebraica è importante, perché quando non ci sono ebrei vi è il panico. Vi è il panico più assoluto, ovvero le persone vengono. Le persone vengono malmenate dai coloni sotto gli occhi dei soldati senza che la loro voce possa essere sentita nel mondo. È triste, è orrendo che serva l'ebreo che filmi. È orrendo, non dovrebbe essere così. Il palestinese dovrebbe essere creduto in quanto vittima. Invece no, c'è sempre bisogno del privilegiato che, ecco, che dà una voce che può essere più ascoltata dal mondo. Noi, ecco, insomma, a parte, ecco, il lavoro pratico, quindi essere là sul campo, che sia accompagnare i pastori ogni mattina, questo avviene in tutta la Palestina, non solo a Sud Hebron, accompagnare i pastori, ecco, nel loro lavoro giornaliero, perché per l'appunto subiscono violenze ogni giorno. Quindi a parte quello, si accompagnano i bambini a scuola, avrete visto decine di video in cui vengono malmenati dai coloni, sputi, rocce, ecco, ahimè, quando ci sono gli ebrei funziona in maniera differente. Quindi in realtà, ecco, mi imbarazzo un pochettino a parlare di quello che faccio, perché mi piacerebbe non ce ne fosse il bisogno, e anche perché è una, la lotta palestinese è una lotta anche mia, in un qualche modo, perché credo fermamente che l'ebraismo non sia quella roba là. Ebraismo non è supremazia, ebraismo non è razzismo, ebraismo non è ecco, fascismo, ebraismo non è tutto quello che lo Stato di Israele, ahimè, oggi rappresenta. Quindi essendo che non ho particolarmente... Concludo ringraziando, ecco, cioè ringraziandovi per avermi dato la possibilità di condividere con voi la mia esperienza, la nostra esperienza, sperando che non ci sia bisogno di più troppo, e vedremo una Palestina libera, sappia. Passiamo ora agli interventi del pubblico. Alzato la mano, sì. Volevo interrompere. No, volevo intervenire con alcune riflessioni, no? Sui motivi di ottimismo, direi, e motivi di pessimismo. Innanzitutto mi presento, mi chiamo Sandro Ventura, sono un ebreo diasporico da 2000 anni, noi siamo nella diaspora, quindi una bella esperienza in questo senso ce l'abbiamo. Nella fase adolescenziale, quando l'identità è più precaria, pensavo anche di andare in Israele, perché questa incertezza, no, che insomma sento forte. Ora io il termine identità mi dà fastidio oggi, come oggi, molto fastidio da parte di tutti. Preferisco molto di più il termine appartenenza. Io appartengo al popolo ebraico, ho dei cugini che vivono in Israele, dei cugini che uno di loro mi ha detto: qui siamo tutti paranoici, quelli che sono venuti in Israele prima della guerra sono venuti perché erano paranoici e avevano paura di essere sterminati dai nazisti, come di fatto è accaduto, e erano paranoici, e quelli venuti dopo sono venuti dopo la Shoah e si sono paranoicizzati perché sono scappati. Cioè anche noi abbiamo una bella esperienza di persecuzioni subiti, di oltraggi, di violenza, che purtroppo questo trascinarsi di violenze per generazioni e generazioni, chiusi nei ghetti, l'ultimo ghetto, quello di Varsavia, dove abbiamo preso le armi in mano. Per i miei genitori che hanno, mia madre non poteva dire come si chiamava Miriam Cohen, quando le dicevano nel 43 come ti chiami, non sapeva cosa rispondere lei, no? Perché rischiava la vita. Quindi per tanti di noi andare in Israele è stato un segno di riscatto, quella bandiera che tu probabilmente, Laila, vivi come una persecuzione, per noi è stata una liberazione. Bisogna sempre considerare, quando si riflette su Israele e Palestina, che sono due diritti che si scontrano. e l'unica soluzione è una mediazione, un compromesso sano, vitale, che possa dare speranza ai due popoli, perché il dramma non è soltanto per i palestinesi, ma anche per gli israeliani, per gli ebrei, chiamiamo le cose con per gli ebrei israeliani. Sono convinto che ci sono dei motivi di speranza che sono proprio in queste associazioni che sono sempre più presenti. Tre anni fa, quattro anni fa sono stato in Israele e Palestina, sono stato a Ramallah, sono stato anche alla Mukata, ho parlato anche con i dirigenti della ANP, che attraverso un'associazione che si chiama J-Call, che è un'associazione che raggruppa ebrei democratici che vogliono la pace, cioè in qualunque modo si deve raggiungere la pace. La pace si può ottenere solo attraverso il compromesso e accettare i reciproci diritti su quella terra. Motivi, dicevo, di speranza e motivi di paura. La paura sono le interferenze internazionali, la geopolitica. Paura mi fa la Turchia, paura mi fa l'Iran, paura mi fanno gli Stati Uniti, paura mi fa l'Europa. L'Europa ha tanta coscienza sporca in tutta questa vicenda, ma tanta. Io ti ho dato la parola, però non puoi prendere. Va bene, motivi di speranza sono, motivi di paura sono le interferenze internazionali, pesantissime da sempre in quella zona, da sempre. Motivi di speranza, le associazioni, gli LGBT, ebrei e palestinesi, ebrei e musulmani si incontrano. Wahat Salam è un motivo di speranza, Neve Shalom in ebraico, oasi di pace, un villaggio che è nato e in cui ebrei, musulmani, cristiani, arabi collaborano e cooperano. C'è il diritto di parola. Quanto tempo mi dai? Io stavo parlando e non avevo terminato. Ah, non avevi finito? Scusa. Sono stata molto gentile. È vero, è vero. Però non devi esagerare perché... Va bene. Chiudo qui. Motivi di speranza sono queste associazioni. Sono gli ebrei che come Alessandro vanno a difendere i palestinesi. C'è un'associazione di rabbini che vanno nei campi per far raccogliere le olive a popolazione palestinese. Gli LGBT. Parent Circle, anzi consiglio l'Ampi di Bagno Ripoli di invitare gli esponenti di Parent Circle. Parent Circle, l'associazione dei genitori che hanno perduto dei figli di qua e di là. Sono una delle fondatrici di Parent Circle. Ah, benissimo. Benissimo, allora qui ti do la parola. Parlaci di Parent Circle, invito l'Ampi di Bagno Ripoli di invitare Parent Circle. Di invitare. Ok, grazie. Poi volevo dire qualcosa io, ma ha il diritto di più lei di me di parlare. Poi molto breve. Com'è che ti chiami che non mi ricordo? Sandro. Sandro, io sono molto contenta di quello che tu hai detto stasera, anche se... spesso funziona così, no? Che quando si parla di Palestina poi si viene a parlare, cioè in automatico si viene a parlare del compromesso, no? Cioè spesso viene utilizzato questo termine. Io ti voglio solo dire che, cioè, noi qui stasera stiamo parlando di Palestina, del popolo palestinese, e quello che dicevo in apertura del mio discorso era che la questione palestinese si può sottolineare, si può riassumere in una frase. Quello che diceva Canafani, non si può rimediare un'ingiustizia con un'altra ingiustizia. Non stiamo parlando non si possono trattare due situazioni diverse in due situazioni uguali. Cioè, da una parte c'è un oppresso, da una parte c'è un oppressore, non siamo uguali. Perché io, a differenza di Alessandro, non ho nessun diritto su quella terra. Non ho un diritto di ritorno, perché questo diritto di ritorno, che è stato sancito, lo ricordo, dalla risoluzione del 1948, non è mai stato attuato. E come me... io sono figlia, sono nipote di quella storia, ci sono stati 700.000 palestinesi che sono stati costretti o deportati o all'esilio. Quindi, cioè, riportare sempre la conversazione, la discussione su il compromesso, la coesistenza, sì, ma noi quel prezzo l'abbiamo pagato. l'abbiamo pagato nel 1948 quando siamo, cioè io non so se voi avete mai letto un libro, tra l'altro, di una scrittrice che anche grazie al contributo di Luisa è stata pubblicata anche da Feltrinelli, su Ada Mira, storia di un abito inglese e di una buca ebrea, parla di questo, cioè parla della rottura del 48, parla delle case incendiate, parla delle famiglie distrutte, disgregate. Quest'anno abbiamo visto a Haifa, un esempio, la città di mio nonno, le case dei palestinesi con le X sopra le porte per indicare qui abitano quelli che sono cosiddetti arabo-israeliani, che anche questo termine è un termine che a noi fa male, perché noi siamo palestinesi rimasti, quelli che sono con cittadinanza israeliana sono palestinesi che sono rimasti durante il tentativo di una pulizia etnica che è stata quella che è avvenuta, all'iniziata col 1948 ed è ancora in oggi in corso. Quindi il famoso compromesso noi l'abbiamo fatto dal 15 maggio, da quella che viene definita il giorno dell'indipendenza, che per noi è la Nakba, la catastrofe del nostro popolo. Un compromesso c'è stato. Quello che oggi possiamo fare è ripartire con quello di cui parlava anche prima Luisa, la giustizia, il diritto, il rispetto dei diritti. Cioè, quello di cui abbiamo visto Marwan Barghouti, decolonizzare quel posto vuol dire liberare i prigionieri, distruggere il muro, eliminare le colonie, eliminare i checkpoint, dare il diritto ai nipoti della diaspora di quei 700.000 palestinesi costretti all'esilio di ritornare. Io ho il diritto di ritornare. Perché la legge del ritorno, che tra l'altro è quella di cui parlava Alex prima, la legge del ritorno, cioè anche la terminologia è necessaria ad analizzare quando si parla di Israele, ritorno dove? C'è un antropologo che si chiama Clifford, che è famoso negli studi sulla diaspora. Clifford e Safran sono i due, diciamo, maggiori esponenti antropologi degli studi sulla diaspora. Parlano della problematicità della parola diaspora per la comunità ebraica, perché la parola diaspora include nel suo significato un ritorno dove? A una terra che è stata promessa a livello religioso? Cioè, è quello che bisogna fare attenzione a come si utilizzano le parole, perché io allora devo rivendicare un diritto al ritorno in quella terra dove mio nonno è nato e dove altri antenati sono nati, cresciuti e hanno versato il loro sangue in quella terra. Per questo io mi offendo quasi, perché ogni volta che si parla di Palestina noi ci dobbiamo giustificare rispetto a un antisemitismo o rispetto a un odio che esiste, ma che non è frutto anche della nostra storia. Appunto, rimediare un'ingiustizia con un'altra ingiustizia, è questo il punto. Cioè, a me sempre mi viene chiesto di parlare di antisemitismo, il popolo palestinese è antisemita, i musulmani sono antisemiti. No, non siamo qui a parlare di questo. Siamo a parlare della storia del popolo palestinese e il ruolo di queste persone, delle persone come Alessandro, che sono nostri alleati, e però è di portare avanti la nostra voce, cioè di aiutarci ad essere dei megafoni di quella che oggi è la nostra condizione, che non ha nessuno, al di là di persone come Luisa, persone come voi, che portano avanti la parola del popolo palestinese. Noi non abbiamo nessuno, non abbiamo nessuno a livello della comunità internazionale, non abbiamo nessuno all'interno dei nostri partiti in Italia, perché tutti, quando si parla di Palestina, guarda caso, da destra a sinistra sono tutti schierati sullo stesso palco. E questo è sinonimo di complicità verso la pulizia etnica che sta avvenendo in quel paese, che non è una pulizia etnica che avviene soltanto geograficamente in Palestina, ma che avviene anche qua, quando mi viene negata la possibilità, perché tu parlavi di tua mamma. Io quando mi viene chiesto a Ben Gurion da dove viene il tuo cognome, perché la domanda che mi viene sempre fatta ad ogni checkpoint che io attraverso, io non dico che il mio cognome è palestinese, io dico che il mio cognome è Giordano, che mio padre è Giordano, che mio nonno è Giordano e che mio bisnonno è Giordano, perché mi viene sempre chiesto fino a mio bisnonno di dove siamo. Quindi io non voglio fare paragoni, perché questo non è necessario, però cioè, riportare la discussione su quel tema è pericoloso, perché tutti noi abbiamo delle storie di sofferenza alle nostre spalle, ma non è da questo di cui dobbiamo parlare. Cioè, dobbiamo parlare di come andare avanti, come fare in modo che anche in Europa, che i nostri politici parlino di quello che succede in Palestina, come avere un riconoscimento internazionale, senza continuare a parlare dei due stati, perché anche a me questa cosa mi fa anche soffrire. Quella è una storia, cioè una storia che è sepolta, che ha portato, io lo vedo anche dalla generazione di mio padre che ha combattuto il Libano, che credeva negli accordi di Oslo, come biasimarlo, tutti i palestinesi credevano negli accordi di Oslo perché doveva essere un punto di svolta alla tragedia del popolo palestinese, ma oggi quella storia non esiste più, è finita, bisogna cambiare. Può esserci uno Stato? Sì, un solo Stato? Sì, però bisogna fare giustizia, questo è l'unico modo. Questi i principali interventi alla serata sulla Palestina a Bagno a Ripoli. Ma prima di concludere vi ricordiamo l'altro evento importante di cui abbiamo accennato all'inizio della trasmissione. Si tratta di Palestina Calling, carovana culturale per la Palestina svoltasi nell'arco di 4 giornate nella Valdera, dal 9 al 12 settembre. Organizzata dall'ARCI con il patrocinio dei comuni di Pontedera, Vico Pisano e Ponzacco, si è svolta presso i rispettivi circoli ARCI con una serie di iniziative culturali, gastronomiche e cinematografiche. Sono stati tenuti laboratori di Dabka, la danza palestinese, a cura dell'Associazione Amicizia Italo-Palestinese. Laboratori di cucina palestinese a cura di Pop Palestine, cortometraggi del Nazara Film Festival, spettacoli a cura di Crescere Insieme, nonché testimonianze e dibattiti a cui hanno partecipato numerosi studiosi e giornalisti palestinesi e italiani, tra cui la Patrizia Cecconi, Manlio Di Nucci, Chiara Crociati, Don Armando Zappolini. Il tutto a sostegno del progetto Musharak, venuto dall'ARCI. Chiudiamo la trasmissione di oggi con la consueta rassegna musicale dedicata tutta alla musica che ha accompagnato le danze nei 4 giorni di manifestazione della Valdera. La Dabka. La Dabka è una popolare danza folcloristica diffusa soprattutto in Palestina, ma anche in Libano, Siria e Iraq. Il nome deriva dal verbo arabo yarbuk, che significa battere i piedi per terra. La Dabka si danza sempre in gruppo da 4-5 persone, ma anche 10, al ritmo della musica scandito dal darbuka, un particolare strumento a percussione. Questa danza rappresenta l'amore per la terra, per il proprio paese e soprattutto l'unione tra le persone. Esprime sentimenti di gioia e spesso è praticata in occasioni felici, come matrimoni, nascite e anche giornate di raccolta dei frutti della terra. E con la Dabka vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì 22, sempre alle 17:30. Inshallah! trovi l'uovo non fanno idea. صفقة جان صفقة جان صفقة جان جان جان لا صفقة